Ad alta voce, Patrizia Zappamulas legge Nemici, una storia d'amore, di Isaac Singer, traduzione di Bruno Dera. Masha dovette uscire presto, la mattina dopo, per andare al ristorante, ed Herman rimase a letto. Come sempre, era indietro con il lavoro per il Rabbi Lampert e decise di terminare il manoscritto che era stato promesso. Aveva dato al rabbino un indirizzo falso nel quale mettere il telefono, ma sembrava che Lampert se ne fosse completamente dimenticato. Grazie a Dio, era troppo occupato nei suoi affari per potersene ricordare. Rabbi prendeva appunti, ma non li consultava mai. Nessuno degli antichi filosofi e pensatori avrebbe mai potuto prevedere un'epoca simile a questa, l'epoca della confusione e della frenesia. Si lavorava in fretta, si mangiava in fretta, si parlava in fretta e persino si moriva in fretta. Forse la precipitazione era uno degli attributi di Dio. A giudicare dalla rapidità del flusso elettromagnetico e del movimento con il quale le galassie si allontanano dal centro dell'universo, si potrebbe dedurre che Dio è impaziente. Egli pungola l'angelo Metatron incalza l'angelo Sandalfon, i serafini, i cherubini, Ofanim e Relim, molecole, atomi ed elettroni si muovono a una velocità folle. Il tempo stesso non trova il tempo di sbrigare i compiti che si è assunto nello spazio senza limiti, nelle dimensioni infinite. Herman si riaddormentò. Anche i suoi sogni erano affrettati, scorrevano l'uno nell'altro, cancellando le leggi dell'identità, negando le categorie della ragione. Sognò che, mentre stava avendo un rapporto sessuale con Masha, la parte superiore del corpo di lei si era separata dalla parte inferiore e rimaneva in piedi davanti a uno specchio, rimproverandolo e facendo rilevare che stava copulando soltanto con mezza donna. Herman aprì gli occhi. Erano 10:15. Chiffrapoix stava recitando le preghiere mattutine nell'altra stanza, adagio, sillaba per sillaba. Herman si vestì e andò in cucina, dove, come sempre, ella gli aveva preparato la colazione. Sul tavolo si trovava un quotidiano. Ma sorseggiò mentre sorseggiava il caffè. A un tratto lesse il proprio nome. Si trovava negli annunci personali. Il signor Herman Broder, di Chifkaf, è pregato di mettersi in contatto con Reb Abraham Nissen Jaroslaver. Seguivano un indirizzo nell'East Broadway, nonché un numero telefonico. Herman si irrigidì sulla sedia. Aveva letto l'annuncio per puro caso. In genere si limitava a leggiucchiare i titoli della prima pagina. Sapeva chi era Reb Abraham Nissen Jaroslaver, uno zio della sua povera moglie Tamara, un uomo erudito, uno chassidim di Alexandrover. Non appena arrivato in America, Herman gli aveva fatto visita, promettendogli che sarebbe tornato. Reb Abraham Nissen, sebbene sua nipote non fosse più in vita, voleva aiutare Herman, ma quest'ultimo lo evitava, perché non voleva fargli sapere di aver sposato una gentile. Ed ora ecco che Reb Abraham Nissen lo stava cercando per mezzo del giornale. Che cosa può significare? Egli si domandò. Aveva paura di quell'uomo implicato nel comitato di Chifkaf. Fingerò di non aver letto il giornale, decise, ma rimase seduto a lungo, fissandolo. Il telefono squillò e Chiffrapoix andò a rispondere. Disse: Herman, è per te, Masha. Masha telefonava per dire che doveva lavorare un'ora in più e che si sarebbe trovata con Herman alle 4. Mentre loro due parlavano, Chiffrapoix prese il giornale, lesse il nome di Herman e voltò la testa verso di lui, sorpresa, additando il quotidiano con il dito. Non appena egli ebbe riattaccato, gli disse: «Ti stanno cercando sul giornale, qui!» «Sì, ho visto. Telefona! Danno un numero di telefono. Chi è?» «E chi lo sa? Probabilmente qualcuno del nostro paese.» «Chiama, Herman. Se hanno messo l'annuncio sul giornale, deve essere importante. Non per me.» Chiffrepoix inarcò le sopracciglia. Herman rimase a tavola. Dopo qualche tempo strappò via l'annuncio. Le mostrò che dietro c'erano soltanto altri annunci e non un articolo cui ella si sarebbe potuta interessare. Poi disse: «Voglio trascinarmi in qualche comitato, ma io non ho né il tempo né la pazienza». «Forse è arrivato qualche parente», disse lei. «Non rimane più nessuno», rispose lui. «Al giorno d'oggi, se qualcuno viene cercato, non si tratta di quisquiglie». Herman aveva deciso, prima, di tornare in camera sua e di lavorare per qualche ora. Salutò invece Chiffrepoix e uscì. A passi lenti si diresse verso Tremont Avenue. Pensava di entrare nel giardino pubblico, di sedersi su una panchina e rivedere il manoscritto, ma le gambe lo portarono in una cabina telefonica. Si sentiva sconfortato e si rese conto che il presentimento dal quale era stato tormentato in quegli ultimi giorni doveva aver qualcosa a che vedere con l'annuncio. Esistevano fenomeni come la telepatia, la chiaroveggenza o comunque si potesse chiamarli. Voltò in Tremont Avenue ed entrò in un bar farmacia. Formò il numero di telefono indicato nel giornale. «Mi sto cacciando in un pasticcio», pensò. Udiva l'apparecchio dall'altro capo del filo squillare, ma non rispondeva nessuno. «Bene». «Meglio così», decise, «non ritelefonerò». In quel momento la voce di Reb Abraham Nissen domandò: «Chi parla? Pronto?» La voce sembrava quella di un vecchio, inclinato a mafiare. Sebbene Herman avesse parlato con quell'uomo una sola volta e non per telefono. «Parla Herman», disse, «Herman Broder». Seguì un silenzio, come se Reb Abraham Nissen fosse stato colto di sorpresa. Dopo un momento egli parve riaversi dallo stupore. La sua voce divenne più forte e più chiara. «Herman, hai letto l'annuncio sul giornale? Ho notizie per te, ma non si tratta, Dio ce ne scampi, di brutte notizie. All'opposto, non innervosirti». «Che cosa c'è?» «Ho notizie su Tamara Rachel. Tamara è viva!» Herman non rispose. A quanto pareva, qualcosa nella sua mente aveva lasciato aperto uno spiraglio sulla possibilità che questo accadesse, poiché non si sentiva scosso come sarebbe dovuto essere. «E i bambini?» domandò. «I bambini non sono più a questo mondo». Herman non disse niente per molto tempo. I tiri del suo destino erano stati così straordinari che nulla poteva più sorprenderlo. Udì se stesso dire: «Come può essere? Un testimone la vide fucilare. Com'è che si chiamava? Non posso crederci». «Sì, sì, Herman, è vero, fu fucilata, ma rimase in vita. Si rifugiò nella casa di certi gentili suoi amici. In seguito arrivò in Russia». «Dove si trova adesso?» «Qui, in casa mia». Di nuovo il silenzio tra i due uomini si protrasse a lungo. Poi Herman domandò: «Quando è arrivata?» «Si trova qui da venerdì. Ha semplicemente bussato alla porta ed è entrata. Ti abbiamo cercato dappertutto a New York. Un momento solo, la faccio venire al telefono». «No, no, verrò io lì». «Come?» «Beh, verrò subito», ripeté Herman. Cercò di riattaccare, ma il ricevitore gli cadde dalla mano e ciondolò all'estremità del cordone. Gli parve di udire la voce di Reb Abraham Nissen che continuava a uscirne. Aprì la porta della cabina. Fissò un banco di fronte, dove una donna sedeva su uno sgabello sorseggiando una bibita attraverso la cannuccia, mentre un uomo le serviva dolciumi. Stava civettando con l'uomo, e tutte le rughe della sua faccia imbellettata sorridevano imploranti, con l'umiltà di coloro che non possono più pretendere, ma soltanto supplicare. Herman riagganciò il ricevitore, uscì dalla cabina e si diresse verso la porta. Masha lo accusava spesso di essere un uomo meccanico, e in quel momento egli si trovò d'accordo con lei. I suoi sentimenti erano arginati, e la mente calcolava con freddezza. Doveva trovarsi con Masha alle 4. Aveva promesso a Jadwiga che sarebbe tornato a casa quella sera. Doveva ancora terminare il manoscritto del rabbino. Mentre rimaneva in piedi sulla soglia della farmacia, clienti che entravano e uscivano lo urtarono. Ricordò la definizione che ha dato Spinoza dello stupore. Quando la mente rimane immota perché l'immaginazione di quella particolare cosa non ha alcun rapporto con il resto. Cominciò a camminare, ma non riusciva più a ricordare da quale parte si trovasse il ristorante. Si fermò davanti a una cassetta per le lettere. «Tamara, viva!» pronunciò le parole a voce alta. Quella donna, isterica, che lo aveva tormentato e dalla quale era stato sul punto di divorziare allo scoppio della guerra, sembrava essere risuscitata. Avrebbe voluto ridere. Il suo burlone metafisico gli aveva giocato un tiro fatale. Herman sapeva che ogni minuto era prezioso, ma non riusciva a muoversi, si appoggiò alla cassetta postale. Una donna vi lasciò cadere una lettera e lo adocchiò sospettosamente. Fuggire. Ma dove? E con chi? Masha non avrebbe potuto abbandonare sua madre, né lui possedeva denaro. Il giorno prima aveva cambiato l'ultima banconota da $10 e fino a quando il rabbino non gli avesse dato un assegno, rimaneva con $4 e un po' di spiccioli. E che cosa avrebbe detto a Masha? Sua madre si sarebbe senza dubbio affrettata a parlarle dell'annuncio sul giornale. Concentrò l'attenzione sull'orologio. La lancetta delle ore era puntata sulle 11 e quella dei minuti sulle 3. Ma il significato di tale posizione gli sfuggiva. Assorto, contemplò il quadrante dell'orologio, come se fosse stato necessario uno sforzo mentale per leggere l'ora. Avessi almeno indossato il vestito buono. Per la prima volta, Herman sentì l'ambizione comune ai profughi, dimostrare che era riuscito ad affermarsi, in una certa misura, in America. Al contempo, qualcosa in lui scherniva questo trito desiderio. Herman si recò alla sopraelevata e salì i gradini. A parte il fatto che era stato un colpo per lui, il ritorno di Tamara non aveva cambiato niente. I passeggeri leggevano il giornale e masticavano gomma come sempre. I ventilatori del treno facevano lo stesso rumore ronfante. Herman raccattò un giornale lasciato cadere da qualcuno sul pavimento e cercò di leggerlo. La pagina era dedicata alle corse dei cavalli. La voltò, lette sopra una tabella e si prese il lettere. Insieme alla soggettività delle apparenze, esiste un'oggettività mistica. Abbassò la tesa del cappello, per impedire alla luce di infastidirlo. Bigamia? Sì, sì, bigamia. In un certo senso sarebbe potuto essere accusato di poligamia. Negli anni durante i quali aveva creduto Tamara morta, si era sforzato di ricordarne le buone qualità. Ella lo amava. Era essenzialmente una creatura spirituale. Spesso aveva parlato all'anima di lei, implorandone il perdono. Al contempo sapeva che la sua morte gli aveva evitato l'infelicità. Persino gli anni gettati via nel fienile di Lipsk gli erano sembrati in qualche modo un sollievo, quando li paragonava alle sofferenze causategli da Tamara durante la loro vita a due. Herman non ricordava più bene perché avesse litigato in modo così violento con lei, perché l'avesse abbandonata trascurando i loro figli. Il conflitto tra marito e moglie era divenuto una disputa senza fine, nella quale l'uno non riusciva a convincere l'altro. Tamara parlava senza posa di redenzione dell'umanità, della situazione critica degli ebrei, del ruolo della donna nella società. Lodava libri che Herman giudicava poco migliori di per scrivere. Era entusiasta di commedie che lo rivoltavano. Cantava con gusto i motivi di successo e andava alle conferenze di tutti i demagoghi di partito. Quando era stata comunista, aveva indossato un giubbotto di cuoio alla cieca. Una volta divenuta sionista, si era messa la stella di Davide intorno al collo. Non faceva che celebrare anniversari, protestare, firmare petizioni e raccogliere fondi per ogni sorta di scopi del partito. Negli ultimi anni 30, quando i capi nazisti si erano recati in Polonia e studenti nazionalisti avevano percosso ebrei e costretto studenti di razza ebraica a restare in piedi durante le lezioni all'università, Tamara, come molte altre, si era dedicata alla religione. Aveva cominciato ad accendere candele ogni venerdì sera e a mandare avanti la casa secondo i principi kasher. A Hermann Tamara sembrava l'incarnazione delle masse. Sempre al seguito di qualche capo politico, ipnotizzata dagli slogan, sempre priva, in realtà, di un'opinione sua. Irritato com'era, egli aveva ignorato la sua dedizione a lui e ai bambini, il fatto che era sempre presente, pronta ad aiutarlo, ad aiutare altri. Anche quando se n'era andato di casa, alloggiando in una camera mobiliata, Tamara veniva a fargli le pulizie e a portargli da mangiare. Lo curava quando era malato, gli rammendava i vestiti, gli lavava la biancheria, batteva persino a macchina la sua tesi di laurea, sebbene la giudicasse antiumanistica, antifemminista e deprimente nelle prospettive che delineava. «È mai possibile che si sia calmata?» si domandò Hermann. «Vediamo, quanti anni può avere adesso?» Non riusciva a calcolarne esattamente l'età, ma era più anziana di lui. Hermann cercò di rimettere in un certo ordine gli eventi, di cucire insieme quello che doveva essere accaduto. Dunque, i bambini le erano stati strappati. Le avevano sparato. Con una pallottola ficcata in corpo, era riuscito a rifugiarsi in una casa di gentili. Una volta guarita la ferita, aveva potuto passare di nascosto in Russia. Tutto questo doveva essere accaduto prima del 1941. D'accordo. Ma dove era stata in tutti quegli anni? Come mai non aveva mai più avuto notizie di lei dopo il 1945? Si era ben guardato dal cercarle, questo sì. Non aveva mai esaminato gli elenchi pubblicati dai giornali yiddish di coloro che cercavano con dei partiti popolari. Poteva mai esistere qualcuno che si fosse trovato in una situazione simile? Si domandò. No, trilioni, quadrilioni di anni dovevano trascorrere prima che una simile combinazione di circostanze potesse ripetersi. Una volta di più a Hermann venne voglia di ridere. Una qualche intelligenza celestiale stava eseguendo esperimenti su di lui, analoghi a quelli eseguiti sugli ebrei dai medici tedeschi. Il treno si fermò e Hermann balzò in piedi. La 14ª strada, salì le scale fino alla via, voltò a est e arrivò alla fermata dell'autobus per aspettarne uno diretto a est. La mattinata era stata fresca, ma adesso cominciava a fare sempre più caldo, di minuto in minuto. La camicia gli si era appiccicata alla schiena, qualcosa del suo vestiario lo infastidiva, ma non riusciva a identificare che cosa. Si trattava del colletto, della cintura elastica delle mutande o forse delle scarpe. Passò davanti a uno specchio e vi scorse riflessa la propria immagine. Era magro, sciupato, un po' curvo, portava un cappello ammaccato e indossava pantaloni sgualciti. Aveva la cravatta di traverso. Si era sbarbato appena poche ore prima, ma già la barba cominciava a scurirgli la faccia. «Non posso andare là con questo aspetto», disse a se stesso allarmato. Rallentò il passo. Guardò le vetrine dei negozi. «Forse avrebbe potuto comprare una camicia da poco». Forse c'era qualche stireria lì nei pressi, dove avrebbe potuto farsi stirare il vestito o perlomeno farsi lucidare le scarpe. Si fermò davanti a un lustrascarpe e un ragazzotto negro cominciò a spalmargli lucido con le dita sulle scarpe, solleticandogli le dita dei piedi attraverso il cuoio. L'aria calda, satura di polvere, di gas di benzina, di odori d'asfalto e di sudore era nauseante. «Per quanto tempo possono sopportarle i polmoni?» si domandò. Quanto può durare una civiltà suicida? Soffocheranno tutti. Prima impazziranno e poi soffocheranno. Il ragazzo negro disse qualcosa delle scarpe di Hermann, ma questi non ne capiva l'inglese, soltanto la prima sillaba di ogni parola gli giungeva alle orecchie. Il ragazzo era seminudo, aveva la testa di forma quasi quadrata, madida di sudore. «Come vanno gli affari?» domandò Herman, cercando di avviare una conversazione. E quello che rispose: «Molto bene». Thank you.